24 mattino. Feliz Navidad. È un omaggio a Oscar Giannino, perché sapete la sua passione per la Catalogna, e oggi il Natale ve lo auguriamo con questa canzone in lingua spagnola. Non l'abbiamo trovata in catalano. 8, 18 minuti, 57 secondi. Vedo con piacere che la direzione tiene la mia indicazione di mantenere al fresco Giannino, perché anche oggi ha la sua sciarpa. Qui con noi i cani e i gatti. Una precisazione doverosa, perché spesso voi ci correggete, io non avevo dato la notizia clamorosa del barigliere che uccideva i malati durante il trasporto. Qualcuno mi dice: ma dite che non è di un ospedale ma di un'agenzia privata. Non ne volevo derivare una considerazione su pubblico privato, era un assassino per me, ma specifichiamolo, era un barigliere di un'agenzia privata, non stavo attaccando il sistema pubblico nazionale. Però non diciamo stupidaggini, era addetto a un servizio pubblico, quindi ragazzi è inutile che tentate di fare cose di questo genere. Ma un assassino è un assassino. Bravo, a prescindere, ecco, perché da chi altrimenti lavora. Questo paese, cioè, arriviamo veramente a livelli di ridicolo. Comunque ti faccio notare che mi hai fatto caro fratello, è Natale, siamo tutti buoni, bene. Ma tu come sempre sei cattivo, perché mi hai fatto gli auguri. I catalani votano, malgrado gli arresti politici dell'umiliato, giustamente umiliato, sottolineo giustamente umiliato, Rajoy, il cinico distruttore dello statuto della Catalogna, che ha provocato il secessionismo sotto quello. Il 5%. Ecco, quindi, malgrado questa umiliazione, mi metti la canzoncina in spagnolo e non ti l'abbiamo auguri, trovata. E ti auguri che mi tengano, tra virgolette, al fresco, come sì, lui sta tenendo al fresco i leader catalani. Sei proprio solidalmente, istintivamente adesivo al fascista arrestatore Rajoy. C'è poco da fare, è così. Allora, se la sta ridendo qui al mio fianco Paolo Agnelli, imprenditore, conoscete il marchio. Una cosa, la civiltà pacifica con cui si è votato in Catalogna ieri, malgrado gli arresti politici senza precedenti dopo lo Spielberg, depone a favore comunque la civiltà di tutti. Ecco, questo voglio. Bene. E voglio sperare che Madrid non faccia altre follie. Ecco, perché sennò. Allora, non so se lo vedi, Oscar, qui al mio fianco, sì, Paolo Agnelli, sì. Che tutti conoscono come il re delle pentole, e la sua un'azienda di eccellenza, ha scritto un libro a quattro mani con Matteo Richetti, parlamentare del Partito Democratico, uomo simbolo del renzismo, ma qui interessa perché è un dialogo fra un politico e un imprenditore. Perché Richetti voleva sapere: ma Agnelli, mi insegna a fare oltre le pentole anche i coperchi, perché diavolo non me l'ha insegnato? Questa è perfida, però è un libro molto interessante e pieno di spunti anche duri sui processi industriali, su come funziona il mondo dell'economia. Io per esempio vorrei partire proprio da un lampo e mi ha colpito. Vi ricordate i palloni della Nike, dice Agnelli nel libro, quelli che fece lo scandalo perché venivano cuciti ai bambini nel terzo mondo? Accade ancora così, e racconta di una visione apocalittica, un viaggio in cui suo nipote in Cina entra dentro una fabbrica e trova delle macchine con le braccia dei bambini legate, lui dice come delle infernali pulegge, alla cinghia per produrre sì, processi. Un sistema di sicurezza che legava il braccio sinistro o destro a una corda che, per evitare che la mettesse sotto, diciamo, lo stampo, veniva raccolta. Mamma indietro. Mia, puleggia per umana la definisce. Una puleggia umana, cioè l'uomo legato è diventato puleggia. E la usa come immagine per dire: ogni volta che pensate al prezzo, alla concorrenza che noi subiamo da altri paesi, immaginate che queste visioni apocalittiche sono realtà. Sì, ma perché fa specie con anni fa, ricordo la faccenda dei palloni appunto cuciti dai bambini, che c'era stato proprio un boicottaggio di questi prodotti perché effettivamente venivano utilizzati i bimbi per fare questi lavori. Ma oggi è la stessa cosa, però questa nell'ottica della globalizzazione tutto è concesso, produrre in questo modo, è concesso non rispettare Kyoto, è concesso non rispettare l'ambiente, non rispettare le regole sindacali e quant'altro, e pertanto vendere prodotti a basso. E noi non e abbiamo ci nessuna i dazi su questi prodotti? Ma occorre regolamentare la globalizzazione così fatta come è stata fatta, da dire direi selvaggia, senza nessuna regola, dobbiamo cominciare a pensare che va normato anche questo, anche perché se non altro non si può tanto parlare di ambiente, di rispetti umani, se poi si comprano liberamente prodotti figli di queste questioni allora, snaturate. È un libro pieno di entusiasmo per il suo lavoro, un imprenditore del profondo nord che sta in una fabbrica in cui conosce i nomi di tutti gli operai uno per uno, le vicende personali, anche amaro perché dice le difficoltà in cui vivono le piccole imprese, è molto sincero. Cioè, per esempio, c'è una riflessione che cito: c'è un robot manipolatore che, se introdotto nella mia azienda, potrebbe consentirmi di lasciare a casa 8 persone insieme e fra l'altro non costa tecnicamente niente, circa 40.000 euro lo stipendio di un anno di uno di quei dipendenti. È chiaro che andremo in quella direzione, è ovvio, è normale, è questione di sopravvivenza. Ora vorrei che lei spiegasse tutto il ciclo, quando questa cosa produce nuovo lavoro, perché lei ha fatto anche un calcolo, è molto interessante questo. Nell'immediato sì. Si perdono posti di lavoro. Nell'immediato sicuramente nell'immediato perdi sicuramente posti di lavoro, e chiaramente. Per esempio nella sua fabbrica, spieghiamo un esempio, è quella mano meccanica il manipolatore che solleva la materia prima e la mette. Non c'è neanche qualità, solamente perfetto. Spostare un oggetto da una parte all'altra. E questo qui sicuramente porta della disoccupazione. Poi è chiaro che se questa operazione porta a un risparmio per quanto riguarda i costi, fa diventare competitiva il tuo prodotto, e la crescita, tu reinvesti nella commercializzazione, nel tuo lavoro, e fai crescere l'azienda, in un discorso che va da 5 ai 10 anni, dipende dal tipo di prodotto che uno fa, se fa un prodotto di marca, se fa un prodotto di marchio o se fa un prodotto industriale semplice, arriverà poi a raddoppiare il proprio stabilimento, essere concorrenziale. Però e lei dice sulla una cosa teoria, che, sì, perché che mi in pratica però l'industria 4.0 o l'impresa 4.0 come viene detta oggi lo fanno anche i cinesi, anche gli indiani, non è che il robot lo mettiamo solo noi, per cui il giorno che lo mettono anche loro sono dolori, per cui voglio vedere cosa succederà fra un po' quando anche determinati posti in cui il costo del lavoro è già basso viene anche aggiunto una alta tecnologia, cosa risulterà. Però non vedremo più almeno i bambini legati alle catene. Sicuramente. Una cosa molto interessante, una cosa quasi cattivista, lei dice: se una piccola impresa come la mia supera i 16 dipendenti, sono costretto per legge ad assumere, per le normative che regolamentano, anche dei disabili, delle persone che mi aumentano i costi del personale del 7%. Sì, non è solamente questo, ho citato questo caso, ma quando un'azienda supera i limiti di 15, e questo ragionamento rientra nel discorso del nanismo industriale, il nanismo è anche provocato da normative come questa che fanno differenza fra 15 e 16 dipendenti. Certo. 16 dipendenti è un nanismo indotto, lei indotto, dice. Provocato da una normativa molto severa, troppo severa, qualcuno vorrebbe toglierla e abbatterla e far arrivare con 3 dipendenti sei come la Fiat, mentre invece io direi che questa ragione andrebbe portata fino a 50 dipendenti. Allora, altra considerazione, poi do la palla a Oscar, che è sorprendente. Lei fa un conto economico, senti Oscar, per dire perché secondo lui le piccole imprese sono tecnicamente, indiscutibilmente virtuose, sulle sofferenze. Lei dice: fino a 30.000, a 75.000, a 125.000 di euro di credito erogato, le sofferenze sono fisiologiche del 3.2, del 3.9, del 4.5%. Quando invece prendi i crediti fino a 25 milioni di euro, e lei dice non sono certo soldi erogati alle piccole imprese, le sofferenze schizzano al 23.5%. Questo ovviamente non vuol dire gettare la croce, è ovvio che gli investimenti sono più grossi, i costi sono più alti, però lei lo dice per spiegare che le piccole imprese non sono i responsabili di quel crollo delle banche, di quei crediti deteriorati. Sì, da questa statistica che abbiamo esaminato emerge chiaramente che l'85% dei NPL, dei famosi crediti in sofferenza delle banche, sono stati provocati dalla grande impresa e da grandi operazioni anche immobiliari, eccetera. Per cui a soffrire di questa crisi sono le PMI, che non sono la causa del problema delle banche. Allora 800 24 00 24, per telefonare 349 238 6666, già vedo i messaggi e qualcuno vuole intervenire. Oscar, Sì, io a conferma di quello che dice Nelli, ed è così, cioè che la maggior percentuale del credito deteriorati, noi siamo arrivati ad averne quasi un terzo del totale europeo, si deve ai grandi prenditori. I grandi prenditori sono quelli a cui il sistema bancario applica condizioni relazionali, cioè non solo il credito con meno punti base di costo, ma anche senza garanzie. E questo la dice lunga sul fatto, malgrado si voglia ridurre la vicenda della crisi bancaria solo la faccenda politica Etruria e così via, e in realtà la Commissione ha parlato poco dei grandi veri problemi che hanno fatto andare a operare le banche. Uno di questi è il credito relazionale, che ha portato a prassi criminali nelle banche andate per aria, e l'altro sono i regolatori con gli occhi chiusi. Quindi il dato che è stato appena riferito è un dato molto importante. Io ricordo, per esempio, nell'ottimismo imparante, per cui bisogna dire che è tutto risolto, che i dati dell'osservatorio sul credito Lombardia, sto parlando da una delle regioni che va meglio in Italia, ecco, in Lombardia nel settore industriale in senso stretto i dati dell'ultimo trimestre dicono che siamo ancora a meno 19% di crediti alle imprese manifatturiere, e dico in Lombardia, non sto dicendo nel sud, eccetera. Questo dà l'idea del problema con cui siamo ancora alle prese. Però volevo anche scusarmi con Agnelli, perché avrà capito che le domande le sono state fatte da un luddista che non vuole la tecnologia, da una... sto scherzando ovviamente, però è la questione. Ecco, bravo, invece mi interessa il problema, quella curva che ha spiegato Agnelli. Sì. Nel breve periodo paghi, e nel grande periodo, nel lungo periodo, un ciclo che però lui dice può essere addirittura di 10 anni, immagina, per avere sostanziali quindi risultati. Avremo davanti questo, proprio togliamo le ideologie, togliamo anche il pensiero di ognuno. Se la previsione di Agnelli, che sta nel cuore della piccola impresa, vale mediamente per tutte le piccole imprese italiane, noi avremo una curva in cui fra 5-6 anni avremo una grandissima sofferenza sociale. Ma non lo so, di gente viene espulsa, naturalmente, dipende dalla scala dimensionale delle imprese. Questo ragionamento non si può fare uguale per ogni avanzamento della rivoluzione produttiva e industriale, però una cosa è sicura: l'obiezione oggi contro l'intelligenza artificiale e l'automazione è la stessa che i luddisti facevano. Ma lui è favorevole, lui non è contrario, non è favorevole. È la stessa che si faceva contro il primo telaio industriale negli opifici, e non col telaio a mano a casa. Se avessero vinto quelli che dicono no, saremmo ancora a livelli di produttività bassissime, e quindi avremmo meno reddito per tutti, meno consumi per tutti, e non ci sarebbe stata la storia degli ultimi 2 secoli. Allora, questa cosa qui bisogna che ce la mettiamo in testa. Ma Agnelli è favorevole. Ti sto dicendo che si pone un problema. Che la cosa di dire però per anni soffriremo ogni volta è la maniera per dire beh, allora non facciamolo. E invece non è così, perché la storia ci ha dimostrato che i benefici di aumento di reddito, di aumento di consumi della produzione, ma di aumento di reddito, del benessere pro capite, del livello di vita, di ciò che si può comprare anche per chi ha un reddito più basso con lo stesso reddito, è infinita. Quindi è la stessa commedia che va avanti dal 700, e ne hanno torto quelli che la sostengono. Vorrei che fosse solo chiaro questo, perché non è che lo dico io, lo dice la storia dell'avanzamento industriale dell'Occidente. Io vorrei precisare che non è una questione di obiettivo. L'obiettivo è quello di arrivare ad avere uno 4.0 totale il più presto possibile, però è chiaro che nell'immediato, io parlo per esperienza personale, ogni macchina che metti risparmia 8 persone, poi se li tieni dentro perché hai il posto, ok, però a lungo andare questo creerà i primi anni di una... Con questo significa che l'operazione va fatta per ma forza. Abbiamo il costo del lavoro che è il più alto d'Europa, è chiaro che un robot a costo praticamente zero... Però lei sa meglio di me, nelle imprese medio-grandi, questa l'automazione significa anche esternalizzare servizi che prima erano prodotti tutti all'interno del perimetro della società. Quindi l'outsourcing non è però automatico e non è collegato al 4.0, ci può anche essere quello. Processare i dati, per esempio, per i gruppi medi e grandi, i dati che si fanno attraverso la sensorialistica applicata alle macchine produttive, sarà esternalizzato rispetto all'azienda. Sì. Ed è una delle maniere per fare il credito a vantaggio sia delle banche, che saranno in possesso di quei dati, che dell'imprenditore, che non dovrà aspettare i dati, semplicemente gli algoritmi del bilancio civilistico per averlo. Faccio questo solo esempio di esternalizzazione dei servizi avanzati, che significa più occupati subito, caro Luca, subito. Quindi io ci andrei piano. Sto solo ragionando da liberale, fra l'altro l'unica esperienza politica che ha fatto, poi è molto deluso dalla politica, fu nella prima Repubblica, lo capisco, nel vecchio Partito Liberale. Lei dice: io sono favorevole alla tassa sui robot, perché? Non fa al concetto, aumentare i costi al concetto, perché Bill Gates, che qualcosa se ne intende di automazione, ha dichiarato, ma in modo provocatorio, che i robot dovrebbero contenere in sé una tassa. Questo era provocatorio per dire attenzione che occorre che ogni governo si doti di mantenere chi resta a casa, e questo era il senso, per cui una tassazione per sostenere una certa disoccupazione, non per mantenere chi resta a casa, per riformare l'occupabilità. Quella è la vecchia concezione degli strumenti passivi delle politiche del lavoro. Noi serve quella attiva, lavoriamo già in pochi senza automazione, cioè l'Europa ha il tasso di occupazione del 70%, noi siamo al 59%, cioè riqualificazione, certo, ma va fatta. Quindi il problema è solamente non possiamo tassare ciò di cui abbiamo bisogno, ciò che ci alza la produttività. Dobbiamo tassare la rendita improduttiva nel nostro paese. Ma certamente sì, ma però è provocatorio per dire guardate che ogni robot creerà problemi alla disoccupazione, e questo lo è, basta saperlo, perché basta tenerne conto che questo è un problema che va risolto, no? Non è che la 4.0 risolve i problemi immediatamente a tutti. Ma ci mancherebbe, certo che no. Allora, pubblicità, dibattito molto interessante. Stefano da Grosseto è lì? Sì, sono qua. Allora aspetti qualche secondo, cresce l'ascolto perché tutti vogliono sapere cosa da dire Stefano, e ritorniamo. Oscar, lo vedi che gli interattori esistono? In tempo reale un interattore ha detto: no, vi segnalo dove trovare la canzone di Natività Catalana, e subito Valerio l'ha piazzata dentro. Ma grazie dentro. Al cielo abbiamo anche dei democratici che ci ascoltano. Ah vabbè, ma non puoi trasformare pure la canzone di Natale in ideologia. Tu veramente, cioè, finisci nelle l'hai messa spagnola tu, però l'hai fatto tu subito. Ma io non mi chiedo delle lingue, era bella, Feliz Natividad, Feliz Natividad. Ci sono quelli che arrestano, ci sono i detenuti politici, grazie a Rajoy. Vabbè, ho capito, sei in guerra. Stefano da Grosseto, no, io ricordo la realtà appeso. Ci sono i detenuti politici, poi se sarà sgradevole ricordarlo, e sono d'accordo, perché mi auguravo di essere in un'Europa in cui non c'era più la gente arrestata per cose politiche, però lì ci sono state, come ci sono ancora. Allora Stefano da Grosseto, prego. Buongiorno a tutti, mi unisco a questa ragionamento così alto, in un consenso così alto, con una piccola frase di Nietzsche che dice: noi tutti conosciamo il prezzo delle cose, ma non ne capiamo il valore. Io credo, da piccolo imprenditore, che pur essendo logici i discorsi che fate, molto veri, ci dimentichiamo di una cosa importante: la spina dorsale dell'Italia è l'artigianato, e l'artigianato viene progressivamente abbandonato, ucciso da situazioni che hanno negli anni compromesso la virtuosità di questo settore. Noi siamo vittima di un concetto filosofico che è qualità-prezzo, e questo concetto ha ucciso e continua ancora a distruggere la nostra piccola economia. Piccola economia che comunque nella somma dei dati è enorme, scusate l'emozione. In ogni caso credo che se si riuscisse a ridare il valore a quello che è la nostra produzione, valore e prezzo, invece che qualità e prezzo, probabilmente le cose potrebbero migliorare. Consideriamo le tante botteghe che sono state chiuse, o l'artigianato, parlo di Tolfa, parlo di cose importanti che facevano comunque l'immagine e la credibilità dell'Italia nel mondo, oggi non esiste più, perché comunque è stato tutto terziarizzato. Allora, l'emozione è molto bella in questo caso, perché significa che stiamo parlando di cose serie, con passione. Anche Agnelli ha questo sentimento, anche Oscar, siamo tutti, cioè ci sembra sia un nodo decisivo. Agnelli, vuole dire qualcosa a questo suo collega? Ma il problema dell'artigianato è sicuramente da rivalutare nella sua manualità, nelle sue qualità che può emettere, però è chiaro, non possiamo dimenticare che mentre facciamo questi discorsi, pur giusti, pur belli, qualcuno che va a fare le compere per noi va a comprare qualcosa che arriva da altri paesi, e pertanto i nostri scaffali nei nostri supermercati sono tutti pieni di prodotti che non vengono prodotti in Italia. Noi stessi li scegliamo quando andiamo a comprare. Da qui poi la scelta è di non lamentarsi se i nostri figli o nipoti non trovano posti di lavoro se continuiamo a scegliere ciò che costa meno. Agnelli, le leggo anche un messaggio critico. C'è un ascoltatore interattore che dice: sì, però Agnelli non mette in conto tutti coloro che faranno la manutenzione dei suoi robot, i tecnici, gli specializzati, quelli che porteranno i pezzi di ricambio. Figuriamoci, però è una questione di rapporto, 1 a 10. Su 10 persone che lasci a casa, uno loro guadagni, per cui ci stanno, però è il bilancio che bisogna guardare. Ma però il bilancio alla lunga pagherà. Io sto parlando di una transizione. Comunque, Oscar, lasciatemi dire al nostro ascoltatore che il rimpianto verso i tempi in cui c'era qualcuno che stabiliva un valore, la teoria del valore a tavolino, a parte che su questo l'economia è andata avanti ai tempi di Marx, Riccardo, eccetera, eccetera. Caro ascoltatore, tu credi di dire una cosa giusta e ti sbagli. Perché in realtà il valore ha un unico metro, non quello stabilito in termini di qui c'è il lavoro, quindi qui c'è un prezzo che è più elevato. No, non è così. Il valore è solo quello che incrocia una domanda con un'offerta, cioè qualcuno che davvero mette mano al portafoglio e dice: a questo prezzo lo compro. Quindi condannare l'effetto della concorrenza domestica e internazionale, che aumenta gli scambi, dà reddito a chi non ce l'ha nel mondo, lo trasforma in un consumatore delle cose italiane che altrimenti non avremmo, è miope. Io lo so che è antipatico dirvelo così, però è miope il rimpianto dell'autarchia senza concorrenza internazionale, è miope. Avete mitizzato un'epoca di Saturno aurea che non è mai esistita, se andate a vedere i redditi pro capite che produceva l'autarchia senza concorrenza, senza prezzi più bassi, sì, grazie alla concorrenza, ai grandi volumi, all'ottimizzazione dei margini che si fa con i grandi volumi. Sono tutte cose che hanno cambiato in meglio la vita delle vostre generazioni che lamentate rispetto a quella dei nostri padri e dei nostri nonni, però voi avete il rimpianto per il passato, perché il passato che non si è vissuto sembra meglio di quello che hanno vissuto i nostri genitori. Non catechizzare tutti. Sergio da Falconara nelle Marche, un'altra poi citazione del libro di Agnelli. Sì, buongiorno, sono Sergio Pierantoni, sono il presidente di una cooperativa Mondo Solidale che fa il commercio, importa dai paesi del sud i prodotti mettendosi d'accordo con i produttori locali e cercando di fare sviluppo sia al sud sia di vendere al nord. Certo, i prezzi sono più alti, condivido pienamente l'aspetto che in questo momento bisogna combattere contro i monopoli, gli oligopoli, e questo si vede soprattutto nel sud del mondo, però è anche vero che per poter assicurare uno sviluppo bisogna fare in modo che la gente che abita al sud del mondo e quella che abita al nord del mondo si incontri e trovi insieme un nuovo modo di sviluppo. Noi cerchiamo di farlo nelle Marche, importiamo circa 750.000 euro di cose che vendiamo, e ogni marchigiano come se comprasse 5 euro all'anno di questi prodotti che seguono criteri che evitano lo sfruttamento. È un piccolo esempio. Non bene, è che Sergio, c'è anche questa sua testimonianza. Una cosa che voglio chiedere sulla capitalizzazione. A Agnelli c'è un esempio incredibile. Io non l'ho capito, mi sembra fantascienza. Senti, Oscar, negli anni 70, quando andavi a chiedere un credito nelle banche, non gli passava per la testa di guardare il tuo bilancio. Ti dicevano all'imprenditore: senti, portami il tuo libretto del nero, io lo tengo qui a garanzia e ti faccio il prestito. Ma questa è fantascienza, che voleva dire? No, è fantascienza, è la verità. Il mondo degli anni, diciamo, dico 70, sì, più o meno, 60-70. In cui il nero in Italia era veramente quasi legge. La banca sapeva benissimo che il conto corrente regolare era vuoto, mentre avevi il libretto, diciamo, più carico su quello che esisteva per quanto riguarda la contabilità. Fantastico. Parallela del nero. I direttori di banca all'epoca si limitavano a chiederti in garanzia il libretto. Ci racconta in un secondo il ciclo dei capannoni, quello è bellissimo. Beh, dopo questa fase, è finito il nero, negli anni più vicini a noi, la banca ti invogliava a fare mutui e farti capannoni. Perché loro avevano la garanzia in solido, mettevano il mutuo con garanzia capannone. Tutti noi abbiamo seguito questo discorso, poteva fare anche comodo. Avevi 30.000 metri quadri. Tutti sono proprietari di capannoni. Poi, oggi però, se tu dici sì, beh, ma ho 30.000 metri di capannoni, ti dicono: beh, ma sa, oggi i capannoni non valgono più niente, e per cui la tua garanzia viene a meno per eventuali ulteriori affidamenti. Oscar, chiudi tu, queste memorie sono importanti per raccontare cosa è accaduto. Una bella dimostrazione che non, la vera arte dell'imprenditore, come di qualunque risparmiatore, non è dar retta a quello che ti dicono in banca, ma ragionare con la testa propria. No, ma purtroppo è vero, sai, perché la banca ti propone quello che ottimizza i suoi margini, per il quale mette meno capitale perché ha più basso rischio, e perché gli italiani hanno casa in percentuale così elevato e sono impegnati anche per poco reddito in orizzonti trentennali? Perché gli hanno sempre raccontato che il reddito del paese, quello personale, poteva cadere, ma la casa comunque si avvalorava, non, che è una balla, perché come ovvio ci sono punti di caduta del reddito e della produzione in cui tutti i valori si allineano. Quindi, cari italiani, e quello che vi dice Agnelli, dalla lezione bisogna trarre il giusto risultato, cioè imparare a fare i conti in proprio, e anche a questo serve. I piccoli imprenditori li sanno fare, perché o li sanno fare su ogni singolo centesimo, o sennò con le tasse e con le regole amministrative che abbiamo non possono stare in piedi. Agnelli, vogliamo chiudere con quei numeri pazzeschi che lei sciorina: 4.350.000 PMI, che sono il nostro patrimonio e che danno lavoro a 16 milioni di lavoratori e producono il 73,8% del PIL nazionale. Questi sono i nostri numeri, a questo la politica e i governi devono guardare, e su questa realtà devono emettere norme, normative, leggi e agevolazioni nel caso. Piccole, per modo di dire, Fausto Lupetti, editore, abbiamo fatto un viaggio, spero irrituale e molto sincero, dentro questa storia. Chi vuole lo legge. Paolo Agnelli, Matteo Richetti, intervistati magistralmente da Giancarlo Luquenzi, pur malgrado sia concorrenza, dobbiamo dirlo. Pubblicità. No, è un amico Giancarlo. Mattino. I capannoni hanno colpito Ulisse, oggi li scoperchiano per non pagare l'IMU, e lo so, sono i cicli, e bisogna fare di testa propria. Qui la morale di Oscar è ineccepibile. Tante cose su cui discutere. Oscar, hai visto che sono diminuiti i pensionati? Muoiono, eh? Scusa, lo dico in modo macabro, ma Sì, cioè, non c'è questo aumento feroce della spesa, perché quindi bisogna propensionare. Sto dicendo che tecnicamente il saldo dei pensionati è che muoiono. Questo dato, numeri, non è che è una mia, ma perché devi sospirare? Ma tutti muoriamo, capisci? Non è che muoiono i pensionati. Ho capito, ma muoiono di più di quelli che diventano pensionati, e questo è il dato. Ti dà fastidio quando si arriva alla prova materiale. No, cioè, la prova materiale che vuoi propensionare, ma non ti fa asfaltare, dai, siamo amici. Ma su, no, abbi ma neanche io voglio asfaltarti. Sei un crea deficit, no, ma siccome ogni volta dici che crollerà, ma non io, le previsioni che stanno negli atti di governo. Non è altro ragionamento del DEF, e dalle su. Va bene, riuniamo i cani e i gatti. L'hai vista quella cosa? No, va di bene, Abari. Significa lasciate perdere a chi ascolta. Invece, sì, lasciate perdere lui, perché se andate sui documenti ufficiali del governo troverete le stime della Ragioneria Generale dello Stato sul fatto che i costi del sistema previdenziale, malgrado la Fornero da impiccare, mandare a destra perché lei ha sfasciato la vita, eccetera, malgrado tutto questo, aumentano. Ecco, lo dice la Ragioneria Generale dello Stato, non Giannino. E invece, uniamo i cani e i gatti, perché credo che il caso di Bari sia clamoroso. L'Agenzia delle Entrate, per non mollare 200.000 euro in imprese, gli ha messo il documento tarocco. Mamma mia. Chi lo sa? Ma l'hai vista? Ma è una perla questa. Ho capito, ma però, in quale paese del mondo succede? L'Italia. Che tu vai... L'Italia. No, io non ho nessun dubbio su questo. L'Italia. Tant'è vero che, per esempio, fammi sapere, siccome sono 70 anni... Però li hanno beccati, quello è importante. Uno... Gli altri ci fanno invece il bonus annuale con la mole di contestazioni fatte di questo tipo. Questa bonus quasi... annuale ai dirigenti d'entrata che non hanno voluto cambiare, che è fatto non su quanto si vince e si porta a casa, ma sul volume complessivo del contestato. Battaglia. Enrico Zanetti ci ha provato anche da vice ministro a cambiarlo e ha perso, a dire la verità. Però ha ragione in questo. Fammi dire, il Messaggero, quest'anno, quotidiano di Roma, con la Virna Cosenza che lo dirige, c'è un fondo di Carlo Nordio, che io stimo molto, ex magistrato, ex procuratore di Venezia, che ricorda, ce lo siamo dimenticati tutti, ma insomma sono 70 anni della Costituzione, perché la Costituzione entra in vigore 47, fine 47, eccoci qua, noi siamo nel 2017, dice c'è una cosa che a dirla suscita scandalo, scrive Carlo Nordio, siccome la famosa storia della Repubblica fondata sul lavoro, noi dovremmo dire fondata sulla libertà. Ecco, questa cosa qui, che sembra una provocazione, cioè non cambierò mai, non metteremo mai in moto un processo così complesso come la riforma della Costituzione per dire invece del lavoro uguale libertà, è meglio la libertà, Invece è significativo proprio rispetto a quello che hai detto. Avere dimenticato che nel rapporto Stato-cittadino il fisco è il terreno in cui c'è il maggior attrito, l'abrasione, e quindi bisogna andarci due volte coi piedi più di piombo da parte dello Stato, e il senso del fatto che lo Stato sente che la nostra Costituzione non lo mette quel livello paritario. Bene. Al centro del rapporto. Allora, sta arrivando, anzi forse è già collegato, Gianluigi Nuzzi, lo salutiamo. Peccato originale, il suo libro Per chiare lettere, L'uomo giusto. E sentiamo Enrico D'Arezzo che ci vuole dire qualcosa, rapidissimo Enrico. Sì, buongiorno. Pronto? Sì, dica, dica. Vada. Sì, senta, no, io semplicemente volevo fare un appunto sul problema che i professionisti non vengono mai presi in considerazione riguardo alle concorrenze sleali. Io ad esempio sono un dentista e da quando il capitale privato è entrato nelle società e quindi giovani, io oramai ho un'età quasi pensionabile, me ne posso tranquillamente fregare. Ma qual è la concorrenza sleale per un dentista? Lo dica in un secondo. La concorrenza sleale sono tutti i low cost che non fanno un'azione, che non hanno idea di come si fa a curare i pazienti in tempi brevi. E quindi ingannano, ho capito. È un problema, lo segnaliamo, sta nel discorso che facevamo prima. Grazie Enrico, ovviamente non tutti i low cost sono dannosi, ma ecco. Lei sostiene questa tesi, se no... Cioè, guardi, è dannoso solo chi esercita la professione senza averne titolo, cioè odontotecnici che si spacciano per medici. Altrimenti chi lo fa a minor prezzo, viva! Il fatto che i professionisti vogliano le tariffe stabilite a tavolino politicamente, dà l'idea che sono preistorici, punto. Bene, Enrico sopravviva anche a questo. Gianluigi, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci. Allora, facci la fotografia con la capacità radiofonica, anche perché sei anche sei nato in radio, di dirci che cosa è successo con questi schiaffoni di Papa Francesco. In buona sostanza, ogni anno a Natale il Santo Padre saluta i dipendenti dello Stato Città del Vaticano, e questa è un'occasione per fare un bilancio. Quest'anno lui ha criticato il coagulo di gruppi di potere all'interno del Vaticano persone che insomma, sì, sulla autoreferenzialità costruiscono il proprio potere. I giornali attribuiscono queste critiche e questo raffreddamento del rapporto tra la Curia, diciamo i lavori della Curia e il Papa, perché non sono stati dati bonus quando il Papa è stato nominato, perché non ci sono state delle agevolazioni. Il Papa poi ha criticato sia il lavoro nero sia il precariato all'interno della Curia. Vero è che già all'inizio del pontificato il Papa aveva congelato le nuove assunzioni, perché poi, ecco, vedi, lì è all'interno, magari uno è assunto da una parte, però è anche a due o tre consulenti. Certo. No? Ecco, e quindi c'è un intreccio di interessi, c'è un intreccio sempre sul vil denaro. Ecco. Questo io credo che rafforzi l'interpretazione di chi, come anche è la mia, vede proprio un'antinomia tra quelle che sono gli interessi. Vi avevano accusato di dipingere un quadro molto nefasto anche con i tuoi libri precedenti, oggi con Peccato originale, anche quando è uscito. Adesso sembra che il Papa sia molto oltre, come dire, lo sguardo ustorio sulla sua Chiesa. Beh, sì, lui ha raccolto e consolidato quella che era la visione, ricordiamoci, di Benedetto XVI, ricordiamoci che era stato proprio lui a dire che c'era sporcizia nella Chiesa in quella famosa Via Crucis, ormai direi di 12 anni fa. Il problema piuttosto è che perdono tutti i papi quando la mettono nel mirino, questa è l'impressione che sembra. Sì, ma Oscar, hai ragione, non c'è stato nessun papa che è riuscito a riformare Francesco la Curia. Ce la farà. Grazie a Gianluigi Nuzzi, Peccato originale, edito da Chiare Lettere. Pensierino Giannino, 10 secondi. Il presidente del Federacciaio Gozzi dice: presidente Emiliano, 8 miliardi l'anno ci puoi costare senza l'Ilva che fa l'acciaio. 8 miliardi. È pazzo. Auguri di Natale, feliz Navidad.